fuck the police. Ah, fuck, fuck, fuck, fuck the police. Ah, sì, direttamente dalle strade al web. Oh, un negro con l'atteggiamento giusto ed il suo rap. Diga, ah, sì, sì, vi basta un film per sentirvi king. Mi fate paura più di Stephen King. Bang bang, gang bang, il vostro slang fa piazza pulita nelle piazze, chili bang. Tutti artisti su di un blog, tutti quanti King Kong. Con un pezzo non avete fatto bingo. Ascolto le tue hits e sei peggio di me. Anche se c'hai le beats, non sei Dr. Dre. Ti credi alla moda ed io non seguo il trend. Ritorno in bagno a farmi strumentali con Garage Band. Fenomeno da baraccone, non ti accorgi che la rete t'ha inghiottito in un boccone. Hai raccontato in giro d'aver ucciso Tupac, che era il tuo cane e l'hai investito strafatto di Prozac. Ne hai preso un altro e l'hai chiamato Ice Cube. T'abbandonerà prima di finire spiaccicato su YouTube. Vorresti essere nato a conto, invece tu sei nato perché gli sei rotto il conto. Tuo padre non se n'era accorto e tua madre è stata zitta, altrimenti eri un aborto. Vorresti essere nato a conto, invece tu sei nato perché gli si è rotto il conto. Tuo padre non se n'era accorto e tua madre è stata zitta. Giù in strada, io non ti ci vedo mai. Ma da dopo 8 mile, tutti campioni di freestyle. Giù in strada, non si capisce più una sega. Nessun ben ben come Capone non riega. Se do la mia home page, sembra che andate in guerra. Notorious B.A.G. in Playa Zeters. Ognuno con la sua ambizione Zaraida. Ma dal vivo tutti franchi, fai da fai da 100 erotti caratteri in guerra con un tweet. Poi scegli strade facili, easy street. Un esercito di OGs è già pronto. Lo scontro, novità 2015. Street out of Compton, tutti guerrieri, tutti fottuti soldier. E prendi malattia per due gocce di pioggia. La testa in California, nascondi Desert Eagles. Ma tu sei più da hotel, California come gli Eagles. Vorresti essere nato a Compton, invece tu sei nato perché gli si è rotto il conto. Tuo padre non se n'era accorto e tua madre è stata zitta, altrimenti eri un aborto. Vorresti essere nato a Compton, invece tu sei nato perché gli si è rotto il conto. Tuo padre non se n'era accorto e tua madre è stata zitta. Giù in strada, sì, io ti ci vedo, sai, le macchine si fermano e ti chiedono a quando gliela dai. Ma un duro resta tale anche con le ballerine, collezionando figura di merda come figurine. Sì, sì, nella vostra gang del bosco chip e chop, qui niente di losco, quindi niente pop. Ma l'invasione delle teste vuote, testi vuoti, siete la scommessa persa dai vostri genitori, senza dubbio, e vi credete pure in gamba. Di cazzo parlate se togliete figa e bamba. E smettetela, a 15 anni quali sparatori, e sparate solo cazzate davanti a vecchie glorie. Fuck the police, bimbi minchia ocio, al vostro nome sotto rest in peace, su di un necrologio. 15 fucili ad acqua e non fate minchiate. Se vi bagnate ancora, stavolta rischiate. Vorresti essere nato a conto, invece tu sei nato perché gli si è rotto il conto. Tuo padre non se ne accorge.